allora, siamo usciti da Bussoleno, siamo sempre sulla statale 24, stiamo camminando, attorno a noi c'erano delle mucche, quando siamo passati hanno detto chiaramente no tap, erano 5, l'abbiamo visto. C'avevano un'espressione un po' combattiva. Sì, sì, si vedeva dalle corna, sì, sì, sì. E quindi niente, se volete ora provo a vedere se Luca che sta con le spalle c'ha voglia di raccontarci, magari sì, potrebbe dirci perché stiamo andando a San Didero in maniera più precisa di come ho fatto io prima. Bravo, esattamente, era proprio quello che volevamo chiedergli. Va bene, allora ora ve lo passo. Passacelo. Sì, un attimo che deve finire una discussione. Oddio, no, non io vorremmo mai interrompere. E anche un telefono, vai. Pronto, buongiorno. Pronto, ciao. Allora, ti volevamo chiedere un pochino di racconti, intanto come siamo arrivati a questa giornata e come mai stiamo andando proprio, beh, state, perché noi siamo a Firenze, ok. Scusa, puoi ripetere la domanda perché ti sento un po' distante. Mi senti? Mi senti? Adesso sì, no. Ok, no, perché abbiamo un accrocchio, guarda, per fare questa cosa della telefonata difficilissimo. Vai, riprova. Allora, rifatti la domanda. Ti volevamo chiedere come siamo arrivati a questa giornata e come mai è stato scelto proprio la meta di San Didero, cioè come mai è così importante arrivare a San Didero, che valore ha, insomma, simbolico o non. Allora, la giornata sicuramente la possiamo giudicare in modo positivo. Io ero anche tra gli scettici rispetto all'eventualità di questa manifestazione, mi sembra che sia pienamente riuscita perché non quantifico un numero preciso, ma sono migliaia e migliaia, forse anche 10.000 le persone che hanno deciso di sfilare per vari chilometri sotto la pioggia. Quindi un dato interessante, tanti valsusini e anche tanti partecipanti da fuori valle. Si arriva a San Didero perché San Didero è uno scenario dove potrebbero aprirsi dei cantieri prossimamente. È previsto lo spostamento dell'autoporto di Susa, che attualmente appunto è nella piana di Susa pienamente funzionante, però per far posto alla stazione internazionale, alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, deve essere smantellato, ma necessariamente ricostruito prima di essere smantellato, perché un'autostrada come quella della Valle non può stare senza autoporto. E San Didero l'area interessata alla costruzione di questo autoporto, che è propedeutica allo smantellamento di quello di Susa. E quindi noi indichiamo questo luogo come uno scenario delle prossime mobilitazioni, prossime resistenze, e quindi siamo partiti da Bussoleno, perché anche Bussoleno è una zona interessata da possibili futuri cantieri, non sappiamo quantificare i tempi, ma a monte di Bussoleno ci sarebbe l'interconnessione tra i binari che arriverebbero dalla Francia, da Susa, e la linea storica. Quindi anche lì stanno cercando di acquisire dei terreni tramite espropri o trattative bonarie, e quindi quello è un altro punto sensibile per il movimento. Ci sarebbero in teoria altri due punti, che sono appunto la piana di Susa e il cantiere di Chiomonte, che si prevede vogliono allargare per scavare il tunnel di base partendo da Chiomonte. Quindi abbiamo un ventaglio di territori possibili, di scenari possibili che si potrebbero, certo, materializzare nei prossimi mesi, e quindi li teniamo tutti sotto controllo e saremo pronti, speriamo, a rispondere a questi tentativi di allargarsi del TAV sul territorio della Valle. Ma e quindi gli espropri, dicevi, sono già iniziati, e come sta andando su quel fronte? In realtà è in corso tutta la procedura di espropri, che però è principalmente un passaggio burocratico o comunque un tentativo di TELT di acquisire i terreni con trattative bonarie. Quindi sono partite lettere e contatti con i proprietari in questi mesi, però devo dire che non abbiamo una contezza precisa di come stia andando questa acquisizione di terreni. In realtà stiamo dicendo a tutta la Valle di rifiutare questi contatti, queste tentazioni di acquisto da parte di TELT. Sappiamo anche che c'è la volontà di tanti valsusini di non cedere a questo, ma stiamo parlando spesso di territori marginali, abbandonati, scarsamente pregiati, magari in mano delle proprietà di persone che neanche in valle più stanno. Quindi, certo, non a caso, non, insomma. Esatto, quindi non a caso insistono su quelli. Devo dire che in realtà cambia poco, noi questi territori li difenderemo al di là della proprietà privata di uno o dell'altro. È chiaro che questo è anche il simbolo della difficoltà che in questo momento TELT sta avendo nell'andare avanti con questo progetto, perché appare chiaro che sebbene il progetto avanzi, sta avanzando molto lentamente e con difficoltà. Certo. In questi ultimi anni non stanno andando molto a rilento, i tempi non sono affatto certi, e tengono tutto ben nascosto per non per agire di sorpresa e per non dare spazio al movimento notabile di anticipare. Noi cerchiamo di essere pronti su tutta la linea, ma chiaramente non abbiamo anche certezze da dare a nessuno. Siamo comunque un movimento popolare con tutti i suoi limiti, le sue difficoltà, e ci confrontiamo con un momento anche a livello sociale di difficoltà generalizzata, di difficoltà anche di una prospettiva. Qua la cosa sicura è che noi in valle ci stiamo, come dice lo slogan della manifestazione, ci siamo e ci saremo. Penso che questa sia un po' una certezza per tutti, anche per il resto, esatto, d'Italia, insomma. Esatto. Questo, che ci rincuora sempre. Esatto. Va bene, ti ringrazio, ti lasciamo andare a continuare la vostra bellissima marcia. E grazie ancora e ci risentiamo presto, insomma, ecco. Va bene, va bene. Ciao. Buona giornata a voi. Ciao.